известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Those of us who grew up playing basketball, whether on a playground in the city or a farm in the heartland, are grateful to the game. È l'intervallo della partita delle stelle della All-Star Game dell'NBA e chi ti spunta dal televisore? What you're born with. Or you can talk a good game all you want, but when it matters, you better back it up. President Obama, che ormai abbiamo capito, lui e i suoi strateghi hanno individuato, no, i grandi eventi sportivi, quelli del weekend, quelli che catalizzano l'attenzione dell'America, come un momento perfetto per fare due chiacchiere agli americani. In questo caso poi Obama, insomma, soddisfatto del successo la settimana scorsa con la promozione del pacchetto di stimolo, non aveva cose particolari da dire, giusto un incoraggiamento per tutti. In America noi ci alziamo in piedi e cadiamo tutti insieme. Insomma, lui l'ha fatto il suo discorsetto partendo proprio dal basket, anzi partendo da una piccola scala locale, no? Dicendo agli americani guardate, non vi dimenticate di dove vivete, non vi dimenticate per esempio di devolvere un po' di tempo ad aiutare i vostri vicini, non vi dimenticate di contribuire ad aggiustare il campetto di basket della vostra strada. Then gather up some friends and lace them up. All of us have it within our power to get off the bench, get in the game, and make a lasting contribution to the life of this nation. Perché l'America, sostiene Barack Obama, è un gioco di squadra, esattamente come la pallacanestro, che lui in questi giorni se n'è andato a giocare di nuovo a Chicago, nella sua città. La novità del weekend, per quello che riguarda così il nostro osservatorio sulla presidenza americana, è che questo presidente, tutto sommato, è un po' part-time, no? Nel weekend non va a Camp David, nella residenza presidenziale delegata, se ne va invece a casa sua a Chicago, incontra gli amici, è stato fotografato e filmato mentre col solito ormai corteo di motociclette e macchinoni è andato poi a vedere la partita a casa di un amico, dopo essere andato in palestra, nella palestra di un amico, e dopo aver portato anche la sera di San Valentino Michelle a mangiare fuori, come fanno tutti i bravi mariti. L'ha portato in un ristorante di proprietà di Oprah Winfrey, amica anche lei di famiglia. Se lo trovo vi do anche il menù, ammesso che ve ne freghi qualcosa o qualche dubbio al riguardo. Comunque ecco qua la cena romantica, hanno mangiato cucina del sud, il ristorante si chiama, mi sembra, Tavolo 52, è un cuoco dello staff di Oprah Winfrey che l'ha messo in piedi, hanno mangiato quei piatti tipo il pesce gatto in salsa gravy, insomma delle cosette leggerissime, ma hanno festeggiato a modo loro, insomma in famiglia. Questo è un interessante doppio piano di Barack Obama, che sta peraltro in questo modo catalizzando anche molto interesse ultrapolitico, oltre la politica, no? Questa capacità di mostrare come tutto sommato il personaggio più in vista del mondo possa essere anche un uomo normale, un uomo a cui, come ha raccontato una volta mentre telefonava la moglie per dirgli al Senato ho ottenuto un successo formidabile, mi hanno votato la mia mozione, la moglie Michelle gli ha risposto: senti, c'ho la cucina piena di formiche, tornando a casa, per favore, comprami uno spray. La chiamano parità dei sessi, 21esimo secolo, a casa Obama è realizzata, e Barack appunto si è preso, dopo il successo, il passaggio del suo piano di stimolo da 787 miliardi di dollari, questa è la cifra definitiva, si è preso un weekend di relax in attesa delle giornate che lo aspettano. Martedì firmerà infatti il piano di rilancio, cioè gli darà il via libera, il piano entrerà in vera e propria operatività. Mercoledì presenterà il piano casa. Naturalmente non vuol dire il fatto che Barack vada a Chicago, non vuol dire naturalmente che l'amministrazione chiude i battenti con l'amministrazione a cui ieri peraltro anche Bill Clinton non certo proprio il migliore amico, ha dedicato una nota molto positiva. Intervistato dal Today Show, l'ex presidente di fine anni 90 ha detto di aver apprezzato la prontezza dell'intervento economico della squadra Obama. Ha lodato il pacchetto di intervento, di stimolo passato dal Congresso la settimana scorsa. Ha detto: secondo me si tratta di un ottimo lavoro e questa legge, questo investimento rappresenta, queste sono parole destinate ad essere ricordate, il nostro bridge over troubled waters, no? il nostro ponte su acque pericolose, insomma un avvicinamento a una situazione più serena di quella attuale. Obama era in vacanziella a Chicago con la sua famiglia, ma il suo più fido collaboratore, quello nell'ombra, quello che quando Obama riceve qualcuno nello studio ovale, secondo me Putin incluso, c'è poi questo personaggino nell'ombra, no? Seduto in maniche di camicia sul divano che ascolta e non dice niente, costui è David Axelrod, lo stratega che ha guidato la sua campagna elettorale con una efficacia destinata ad essere memorabile. E allora, mentre il capo ufficio Obama era in ferie per il weekend, David Axelrod invece si è preso un weekend di lavoro e si è girato praticamente le principali trasmissioni televisive. Lo abbiamo visto da più parti. L'intervista più lunga l'ha rilasciata a Meet the Press, ha fatto anche una tavola rotonda a cui partecipavano tra l'altro giornalisti interessanti. Ve ne facciamo sentire un breve estratto che abbiamo tradotto per voi, un paio di domande nel corso di questa conferenza stampa, grazie alle quali Axelrod motiva, no, l'operazione economica condotta con tanta intensità la settimana scorsa dal suo staff. David Gregory, il conduttore, gli chiede, dice: avete avuto un'ottima vittoria con il pacchetto di provvedimenti economici. Il presidente, anzi, ha dichiarato di aver vinto, di avercela fatta, ha avuto un atteggiamento trionfante. Io voglio farvi però la domanda che sottostà a tutta questa situazione, ovvero: questo piano di stimolo riuscirà veramente ad ammorbidire la recessione che è in corso quest'anno? Well, I think that there's going to be some immediate activity. Immagino ci sarà una reazione immediata. Dobbiamo prima di tutto capire che questo è il peggior rovescio economico dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Così la nostra missione è di attenuare la traiettoria di questa crisi e poi di invertirne la tendenza. A questo servirà lo stimolo, a questo contribuirà lo stimolo. Siamo convinti che nei prossimi 2 anni si creeranno 3,5 milioni di posti di lavoro. Questo è un fatto molto importante. Ci stiamo anche preparando ad evitare che venga indebolito del personale chiave per le nostre comunità, come i docenti, i poliziotti, i pompieri. Ci stiamo accingendo ad aiutare quanti sono alle strette con le assicurazioni e con l'assistenza sanitaria. E in particolare vogliamo mandare la gente a lavorare realizzando cose di cui l'America oggi ha bisogno nel campo dell'energia, della sanità, dell'educazione, per ricostruire le nostre strade, i ponti, le dighe. Vogliamo ottenere effetti a lungo termine e a breve termine, ma la maggior parte di questi progetti dovrà prendere le mosse immediatamente. Anche se dobbiamo essere chiari, le cose non cambieranno dal giorno alla notte. Il presidente è stato chiaro: ci vorrà molto tempo per mettere ordine in questo disastro, ci vorrà molto tempo per uscirne. Questa è la voce di David Axelrod che risponde alle domande dei giornalisti per conto di Barack Obama nel corso di questa tavola rotonda. Tra l'altro, come vi dicevo prima, sono previsti diversi appuntamenti di grande interesse, di cui qualche particolare, qualche spicchio, qualche notizia si coglie anche da Nancy Pelosi, che come sapete è in visita in queste ore, in questi giorni in Italia, ha una agenda densa di appuntamenti, e noi più tardi faremo anche un collegamento per seguire, grazie a Vincenzo Miglietta, la presenza di Nancy Pelosi alla nostra Camera dei Deputati. Tutto questo tra qualche minuto, dopo che tra l'altro, grazie a Facebook, avremo steso una pagella del primo mese di presidenza di Barack Obama, affidato alle vostre valutazioni. Ma prima di arrivarci ascoltiamo ancora Axelrod, che a questo punto risponde a una domanda che riguarda la disoccupazione crescente in America. Sapete, il tasso tasso adesso sta al 7,6% in America. È un dato molto importante, molto impressionante, ma minaccia di peggiorare ancora il dato in questione. Infatti Gregory, il conduttore della tavola rotonda, chiede a Axelrod se il pacchetto di stimolo riuscirà a far sì che la disoccupazione non raggiunga la temuta cifra del 10%. Well, that's our hope. È quello che speriamo, quello che è certo è che senza questo intervento si sarebbe finiti dritti ad una disoccupazione in doppia cifra. È contro di questo che ci stiamo battendo, vogliamo cambiare il trend delle cose e siamo convinti che tramite questo intervento ci riusciremo. È per questo che il Presidente in questo momento agisce con questo senso di urgenza. Sapete bene che il mese scorso abbiamo perso 600.000 posti di lavoro e che si parla di 1,5 milioni di posti di lavoro scomparsi negli ultimi 3 anni. È una traiettoria orrenda. Quello che stiamo facendo dovrebbe spingere sul pedale del freno e rallentare decisamente questo corso. The trajectory is horrible. This should help put the brakes on that and slow it down. Your mind is sure that I'll be loving you always. As now I can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, do know what I say is true, that I'll be loving you. Ecco la voce di Stevie Wonder, As, una delle sue canzoni più celebri. Vi potreste chiedere perché mette Stevie Wonder. Lo metto perché il 25 febbraio, proprio a dimostrazione che alla Casa Bianca stanno cambiando l'aria alle stanze, caro Emiliano, che cosa fanno il 25 febbraio? Fanno venire Stevie Wonder a fare un concertino a casa, nella East Room, nella stanza est, stanza orientale della Casa Bianca. Ci sarà un concerto di Stevie Wonder per Barack Obama e sua moglie Michelle e alcuni ospiti. Sono cambiati i tempi e poi abballano, nel senso che Stevie suona la pianola e gli Obamas e poche altre fortunate coppie. Io non vedo ancora qui l'invito, che credo che insomma potrebbe ancora per meriti arrivare. Acquisiti dovremmo anche meritare. Comunque insomma il concerto sarà diffuso poi per i poveri mortali come noi dalla televisione pubblica PBS il giorno successivo con l'immaginifico titolo di Performance alla Casa Bianca. È un mondo che cambia, caro Emiliano, anche la mia voce sta cambiando formato, non importa. Proprio nel corso della trasmissione cambia. Sì. Dunque, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori alla fine del primo mese, la settimana che segna la fine del primo mese di presidenza Barack Obama, una valutazione. Ci sono le novità, i programmi, le iniziative, il pacchetto di stimolo economico, però anche tanti incidenti di percorso, tante critiche. Abbiamo chiesto un punto di vista, no? Da qua, dall'Italia, quello che riusciamo a capire, a vedere, un voto proprio da 1 a 10 e anche una breve motivazione su come sta andando il presidente 44. Allora, abbiamo messo da parte almeno una trentina, direi, di giudizi con tanto di voto, voti altissimi, stravincono una media tra il 7 e l'8, qualcuno da un 10, insomma. Stefano, da dove parto? Dai voti buoni o dai pochissimi cattivi? Vai a casaccio. Allora, comincio da Giulio, che si astiene dal voto, è l'unico, credo, che dice, ecco. Non ci penso proprio a dare il voto al governo Obama dopo così poco tempo, però chiedo una cosa, magari Stefano, se vuoi intervenire, una cosa interessante sarebbe sapere i motivi delle dimissioni degli esponenti repubblicani del suo governo. Le dimissioni degli esponenti esponente, perché l'hanno detto chiaro e tondo, l'ha detto Greg un paio di giorni fa, ha detto per me è troppo, non, come si dice a Roma, non gliela faccio. Hanno provato a includere, a dare veramente una pratica bipartisan al governo, ma evidentemente poi i richiami di partito devono essere così numerosi che hanno preso la porta e sono andati. Allora, io comincio con i voti positivi. Vai. Valentina, 7,5, una luce così forte crea necessariamente delle ombre, ma il giudizio da qui in avanti è più che positivo. Valeria, gli darei un bell'8 vista la situazione che si trova ad affrontare, mentre Roberto si ferma a un più modesto 7 sulla fiducia. Per il resto le intenzioni sono buone e qualcosa di interessante lo sta facendo. Riccardo, voto 8, motivazioni, le intenzioni su Guantanamo, il Lilly Lepetet Act, che è la prima legge firmata sulla parità nel lavoro, certo, tra uomo e donna, il piano di rilancio economico, quindi Riccardo è ampiamente soddisfatto. Chiudo questo giro con Simone, gli do 8, non perché apprezzi le sue proposte, anzi, ma perché comunque sta mantenendo nei fatti quel che aveva promesso di fare. Voti generosi anche perché si basano molto sulle prospettive, cioè su quello che sulla si fiducia intravede. Io vorrei vedere se riferiti ai politici italiani questa generosità. Beh, c'è qualche commento cattivello. Vabbè. Allora Renzo, voto 9, non si può fare di più e basta questo. Sandro, voto 8 per le buone intenzioni, sgonfiate in parte dall'aver perso dei pezzi importanti in veste di collaboratori fin da subito. Marco gli dà la sufficienza raccomandandogli di impegnarsi di più, di fare i compiti a casa e di non farsi distrarre dalle cattive compagnie. Maurizio invece è di altro parere, da un altro punto di vista, gli dà un bel 4 per l'eccessiva leggerezza dell'essere presidente, anche se secondo me sta facendo come Sarkozy, insomma si sta preparando alle elezioni 2012, la Maurizio ma sei cattivissimo, abbassando di botto le aspettative di tutti. Beh, questo è veramente un piano perverso quello che intravede Maurizio. Lucio Chiesa però è peggio di Maurizio, che gli dà 1 a scuola, era un voto che mi sembra di ricordare, dice è un divago, incapace di gestire le crisi, si pronuncia per il protezionismo in campagna elettorale, poi contro pochi giorni fa, poi cede all'ala radical sindacalista del suo partito e lancia parole d'ordine demagogiche alla base di Buy American, compra americano. Allora, magari tra un mese rifaremo il sondaggio, vedremo la media se rimane così alta o se scema. Io posso passare dall'estasi di Nevio che gli dà 10 con 3 punti esclamativi, però poi articola il suo ragionamento perché dice promette grandi cose di sinistra, ne fa solo il 30% scarso e riesce poi a convincere gli oppositori con lo charme. Questo è quello che fa un politico di razza. Poi invece c'è Luca che dice credo che Obama sotto il profilo mediatico faccia incetta di favori perché è di colore. Se tutto quello che dice e sta facendo l'avesse fatto un bianco, credo che non ci sarebbero state tante correnti a suo favore. Comunque dice che iniziative salva crisi e politica estera su questi argomenti è ancora presto per giudicare. Infine, ultima raffica, Giampiero, un 10 convinto perché un uomo come Barack merita credito. Fabrizio, un bel 6 di stima, buone idee. Massimiliano, nonostante qualche difficoltà di avviamento, un 7 più che meritato. Matilde, che peccato che anche Obama debba alloggiare all'albergaccio, gli do 7 per l'impegno e la buona condotta. Luther, a un terzo dei 100, non vedo grossi colpi di sterzo, voto 4 più, il più per la buona volontà. Luca, apprezzo l'impostazione che ha voluto dare a queste prime settimane, voto 8 sulla fiducia. Mukeba, voto 6,5, la media tra l'8 perché è riuscito a far approvare lo stimolo economico in meno di un mese, il 5 per gli errori nella scelta dello staff. Mauro, per ultimo, un 8 di incoraggiamento per i buoni inizi, se visto da qui diventa 10. Keep America is a land discovered by an Italian, named for an Italian and built by millions of Italian Americans. E questa è la voce di Nancy Pelosi, il discorso che ha fatto un poco più di un'ora fa alla Camera dei Deputati per testimoniare il suo messaggio di amicizia nei confronti del nostro paese, ma anche così per cominciare a spiegare i motivi, no, di questa sua lunga particolareggiata visita, di cui poi tra poco parleremo ancora. Tra l'altro ha ricevuto dei regali, degli omaggi, è stata a Firenze, vedrà il Presidente del Consiglio domani e il Papa mercoledì. Sentiamo la conclusione del suo intervento. Work together, you within the European Union, we as part of the Atlantic Alliance for a better world. Thank you for the honor of being with you today. God bless America and viva Italia. God bless America and viva Italia, ha detto quella che è attualmente la terza carica degli Stati Uniti d'America. Dopo il presidente, il vicepresidente, arriva lo speaker della Camera dei Rappresentanti, incarnato per l'appunto dalla signora di San Francisco, democratica di sinistra, decisamente posizionata più a sinistra di Barack Obama, che molto ha fatto sentire la propria voce già nella fine del secondo mandato Bush e che ora è una entusiasta sponsor di Barack Obama, che prova a spiegare agli italiani, noi siamo convinti sia un po' questo in fondo il senso della sua missione, spiegare, avvicinare, aprire, cominciare ufficialmente i rapporti tra la nuova amministrazione americana di Obama e il nostro governo, non solo, anche le nostre istituzioni, non solo, anche naturalmente la Chiesa di Roma. In questo momento Nancy Pelosi però è ancora in attività all'interno della Camera e noi chiamiamo Vincenzo Miglietta, che è il giornalista parlamentare di Radio 24, che sta seguendo questa giornata romana di Nancy Pelosi. Ciao Vincenzo. Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Che sta succedendo in questo momento? Guarda, la conferenza stampa della Pelosi con il presidente della Camera Fini è terminata proprio pochi istanti fa. La sensazione, come hai giustamente anticipato da studio, è che questa visita italiana abbia la finalità proprio di riavvicinare i due paesi, le istituzioni dei due paesi, dopo anni forse di qualche di su e giù, diciamo. Certo. Assolutamente. I temi al centro, guarda, dopo un piccolo siparietto iniziale con un dono che ha molto commosso la Pelosi, Fini ha donato i certificati di nascita dei nonni italiani della Pelosi, tra domande ed intervento della stessa Pelosi si è trattato dall'Afghanistan, quindi dal ruolo dell'Italia nella NATO. La Pelosi ha detto che l'Italia è il partner più importante dell'America in ambito NATO. Si è passati poi al capitolo Guantanamo verrà chiuso, ha detto la Pelosi, che ha dettato un po' i tempi dell'operazione. Ci sarà una prima verifica di ogni situazione, poi chi ne avrà le caratteristiche tornerà a casa. La Pelosi in questo caso parlava proprio al posto di Obama, ha detto che Obama avrà questo calendario e la Pelosi ha comunque escluso che Obama possa chiedere a paesi che non hanno detenuti a Guantanamo di accoglierne nelle proprie carceri. Qui è intervenuto Fini, dove ha ricordato che solo detenuti giudicati dalla magistratura italiana possono essere presenti nelle carceri italiane. Il che fa un po' tramontare quindi l'ipotesi di un trasferimento di detenuti in Italia. È così. E dopodiché si è passata all'ampia parte economica dell'intervento, dal futuro piano economico di Obama, molto incentrato sulle energie rinnovabili, e poi al rilancio dell'economia, dai mutui ai sostegni alle politiche della casa. Per finire vi è stata una domanda sul rapporto Fiat-Chrysler. Certo. E la Pelosi ha detto: non la vedo come problema. Sì, qualche parlamentare mi ha avvicinato, ha detto la Pelosi, forse c'è stata un po' di diffidenza verso la Fiat, ma per me non è un problema. Per noi l'industria dell'auto è fondamentale e la vogliamo alla base della nostra industria. Tra l'altro, più riprese la Pelosi, Vincenzo, è stata assai poco tenera nei confronti della Chrysler, invece, di cui non vede di buon occhio i manager. Sostiene che la gestione della Chrysler è tutt'altro che trasparente ultimamente. Senti, per concludere, che atmosfera circonda un po' la Pelosi, no? Questo primo grande volto nuovo della nuova amministrazione americana, com'è stata accolta, con la consueta cordialità italo-americana, o hai notato insomma qualche scarto, qualche differenza? Forse si cerca di capire chi sono questi nuovi governanti americani, che succede, che aria hai notato? Sì, la sensazione è che anche dal presidente Fini vi sia stata la voglia proprio di accogliere l'ospite con uno scatto particolare, questa volta rispetto a ad altri appuntamenti, farsi vedere come la parte veramente buona del paese nei confronti di una nuova presidenza americana che promette grandi momenti per l'attuale crisi economica, ecco. Oh, domani c'è Berlusconi in programma, che tu sappia? Sì, è così, domani incontrerà Berlusconi, poi, come ha anticipato da studio in settimana il Santo Padre, poi vi sarà una visita a Napoli, dove la Pelosi ha detto: per noi Napoli è molto importante proprio perché è il centro del comando NATO in Europa, e lì saluteremo i nostri soldati, gli eroi, e qui è andata un po' sulla retorica tipicamente americana. Eh sì, perché come proprio ci ha ricordato Vincenzo, comunque proprio questa retorica, ma soprattutto questo aspetto, come dire, interventistico americano, è stata più riprese al centro della visita della Pelosi. Già ieri aveva visitato un cimitero americano di soldati caduti nella Seconda Guerra Mondiale. Credo che Aviano sia compreso nel suo itinerario. Sono continui i rimandi comunque a ciò che l'America sta facendo per il mondo, anche da un punto di vista di interventismo militare, ma al tempo stesso della collaborazione di cui ha bisogno. Grazie a Vincenzo Miglietta, che risentiremo sicuramente nei suoi interventi al seguito di questa visita della Pelosi. Ma vi volevo dire ancora qualcosa riguardo alle dichiarazioni che questo personaggio di grandissimo spicco dell'amministrazione di Obama, anzi che ha preceduto Obama condividendone molte parti del programma e delle idee, l'ha preceduta perché si è insediata due anni prima. Nancy Pelosi ha dichiarato, riguardo, introducendo così Obama agli italiani, dice: con lui è cominciata una nuova era nei rapporti tra Europa e Stati Uniti, basata sulla cooperazione e sul rispetto, e non più come con Bush, di cui Nancy Pelosi è sempre stata acerrima, implacabile nemica, sulla condiscendenza e sulla indifferenza. Obama vuole veramente vedere un miglioramento dei rapporti transatlantici. Tra l'altro voi state continuando, evidentemente stimolati dallo spazio Facebook che abbiamo tenuto poco fa, a mandare i vostri giudizi sul primo mese di presidenza di Barack Obama. Devo dire che via SMS al 349-238-6666 siete assai meno teneri. Vediamo, Machil scrive: con Obama abbiamo visto il fumo, dov'è l'arrosto? Ancora un ascoltatore scrive: partecipo anch'io, voto 4 perché mi vuol togliere le Mustang. Sapete bene che Obama è nemico degli American Horses, no? Come si chiamano tra gli appassionati. E ancora c'è un voto di Amedeo che gli dà 10, però la motivazione Amedeo vergogna, la motivazione è per sua moglie. Ma insomma, dai, ancora dichiarazioni, vi dicevo, relative alla questione Fiat Chrysler di Nancy Pelosi. La Pelosi ha detto: c'è ostilità nel Congresso a dare altri soldi alla Chrysler perché i proprietari sono speculatori e non azionisti. Sono parole molto chiare, voglio dire, non è che gliele manda a dire. Io intendo esaminare la questione senza preclusioni e senza decisioni precipitose. Forse la Chrysler naviga in acque ancora meno buone di quanto si possa supporre. Riguardo alla base di Aviano, incontrando le truppe americane, ha detto di ringraziare. Non so quanti americani sanno che non abbiamo migliore amico nella NATO dell'Italia, non so quanti sanno che 14.000 dei nostri militari sono ospitati all'Italia, non so quanti sanno della leadership dell'Italia nella lotta alla proliferazione nucleare, al terrorismo, alla crisi alimentare, alla crisi del clima, ma vogliamo che lo sappiano e cercheremo di metterlo in evidenza durante questo mio viaggio. Dunque è arrivata finalmente, al di là delle telefonate, insomma, di forma, è arrivata la nuova America, si è presentata a tutti gli effetti, e questo sembra essere davvero lo scopo del viaggio di Nancy Pelosi. L'America di Obama stende la mano alla Italia 2009. Quanto all'omaggio fatto da Gianfranco Fini, appunto di questi atti di nascita ai nonni paterni, per la cronaca, si chiamavano Tommaso Fedele D'Alessandro, nato a Montenero Domo in provincia di Chieti nel 1868, e Maria Foppiani, nata a Rovegno in provincia di Genova nel 1894. Un bel regalo. My home, yeah. 360 gradi. News dai punti sensibili del pianeta. Qui continuano ad arrivare i voti, ma si stanno abbassando. Gli utenti, nettamente, gli utenti SMS sono più estremi, devo dire, dei riflessivi, no? Vergatori di giudizi di Facebook. Qui si va come niente dallo 0 al 10, oppure, come dice Sergio, gli do voto 0, gli altri 10 punti a fine mandato se meritati. Oppure Franco gli dà proprio 0, perché 0 più, perché è troppo furbo, e invece Giacomo gli dà 10 in politica, 4 per il protezionismo. Questo è interessante, questo qua. Il mio voto basso forse per le troppe aspettative che tutti hanno su di lui, e poi c'è anche qualche voto positivo, ma insomma così. Notizie dal mondo, da ogni angolo veramente oggi ne abbiamo, vero? Allora, partiamo da Israele, faro della nostra trasmissione in queste ultime settimane. Siamo in una fase di stallo, anche di incertezza, di suspense, perché la settimana scorsa si è votato per il rinnovo della Knesset e del Parlamento. Risultato quanto mai incerto, abbiamo anche spiegato nello stile poi della tradizione israeliana, non c'è un chiaro vincitore. E adesso la palla è nelle mani del presidente Simon Peres. Da quanto si apprende dal sito web del quotidiano israeliano Haaretz, oggi Peres ha informato che inizierà le consultazioni dopodomani, quindi mercoledì, quando ci saranno tra le sue mani i risultati ufficiali. C'è una nota simpatica, ha detto Peres in un incontro di oggi ad un liceo, un gruppo di studenti di un liceo di Beersheba, ha detto: mercoledì alle 18 locali avrò i risultati ufficiali e fino a quel momento non discuterò di questa questione neanche con me stesso. Qui bisogna capire a chi darà il mandato, almeno il primo incarico, perché sulla carta ha vinto la Livni, il Kadima, con 28 seggi, però l'idea di una coalizione attorno alla Livni è complicata, mentre è più facile che possa essere dato l'incarico a Netanyahu, il leader del Likud, che ha preso soltanto un seggio in meno, 27 contro 28. Ieri la Livni ha detto chiaramente che non ha intenzione di entrare in un governo di unità nazionale con Bibi, quindi con Netanyahu. Questo è un bigliettino, no, che ha passato al presidente uscente Olmert. Vedremo poi le mosse, insomma, di Peres, che a questo punto ha una grossissima responsabilità tra le mani. C'è già chi parla di ingovernabilità, insomma, di Israele così disegnato. Invece arrivano notizie dal disastro aereo. Purtroppo non tutti gli aerei sono pilotati da Sullenberger, il grande eroe che è atterrato in Hudson. Forse neanche lui in questo caso ce l'avrebbe fatto con questo piccolo aereo, il bimotore Havilland Bombardier della Colgan Air, no, che è andato giù a Buffalo nello stato di New York giovedì notte. Ci sono dei particolari perché c'è molta agitazione in America, dove prendere un aereo è come salire sul tram, ma insomma sarebbe bene che gli aerei cadessero un po' meno. E il secondo incidente in pochi giorni ha destato allarme. Vengono fuori particolari dall'indagine e trapela che al momento dell'incidente l'aereo aveva il pilota automatico inserito, per quanto fosse già ormai in manovra di atterraggio. Il particolare non è sufficiente per stabilire che quella sia effettivamente la causa del disastro, dicono gli organi di informazione americani, ma certamente quello è un assetto in violazione delle norme di sicurezza previste in caso di condizioni atmosferiche cattive, come quella in cui si è appunto verificato il disastro. In quel caso, come si dice, il pilota prende in mano l'aereo. Poi tutta la questione è aggravata dal fatto che l'aereo, certamente, come la scatola nera ha rivelato, aveva del ghiaccio sulle ali, nonostante il meccanismo di scioglimento del ghiaccio sulle ali fosse stato avviato subito al decollo. Probabilmente la coazione di queste due cause, anche se l'aereo era ormai bassissimo, è caduto da un'altezza di 800 piedi, cioè 300 metri, insomma, la situazione, le due cause messe insieme hanno generato il disastro. Allora, intanto Hillary Clinton si trova in Asia. Non credo sia un caso che il primo viaggio ufficiale del segretario di Stato abbia saltato a piè pari la vecchia Europa e sia volata direttamente in Asia. Oggi è arrivata a Tokyo, il Giappone ha le prese con una gravissima recessione, ma credo che il piatto forte di questo lungo viaggio di Hillary Clinton in Asia sia da venerdì, con l'approdo a Pechino, quindi con il partner ormai di questi anni, anche qui a Jefferson, cioè la Cina. Intanto Chavez ha vinto la sua personale battaglia in Venezuela. Hugo Chavez, il presidente, aveva indetto un referendum per chiedere conferma delle modifiche costituzionali che di fatto gli rendono illimitata la possibilità di ricandidarsi all'infinito. E questo è uno scienziato, è uno scenario che secondo me dobbiamo approfondire. Approfondiremo nei prossimi giorni. E il referendum gli ha dato ragione, perché il 54% dei venezuelani che sono andati al voto ha detto sì all'iniziativa di Chavez, che ha chiesto più tempo per trasformare il Venezuela in uno stato socialista. Chavez è in carica già dal 99, quindi nel 2012 scadrà il secondo mandato, che fino alle riforme attuate in questo momento dalla Costituzione era l'ultimo termine per averlo presidente. Invece, con questa riforma della Costituzione, Chavez si può candidare per una terza, quarta, quinta, sesta volta, chissà. Ancora l'infinita storia di Blagojevic, l'avete seguita anche qui a Jefferson. Altri guai all'orizzonte, perché il senatore dell'Illinois Ronald Burris, uno che non so perché sento l'odore che il mandato non lo finisce, ha rivelato che il fratello dell'ex governatore dello stato Rod Blagojevic, un personaggio che immediatamente vogliamo conoscere, il fratello di Blago, lo avrebbe più volte sollecitato a contribuire alla sua campagna mesi prima di nominarlo come sostituto di Barack Obama, nel frattempo eletto presidente. Burris ha reso noto di aver avuto 3 conversazioni con Bob Blagojevic, il fratello di Rod, Bob e Rod, e con altri collaboratori che gli chiedevano quattrini. Lui sarebbe rifiutato di versare contributi, ma le rivelazioni contenute in una memoria sono in contraddizione con quanto dichiarato a suo tempo dal senatore, dallo stesso Burris. Dal canto suo, Burris aggiunge di aver affermato di aver presentato il documento come supplemento alla precedente testimonianza. I repubblicani già si agitano e vorrebbero cacciarlo. Hai altre cose, mi sa? Dai, abbiamo ancora 30 secondi. Sì, c'è il compleanno, noi che lo vogliamo festeggiare, di Kim Jong-il, il leader dittatore nordcoreano, 68 anni. Tra l'altro la Corea ha fatto trapelare oggi la notizia che sta preparando il lancio di prova di un missile a lunga gittata che potrebbe addirittura raggiungere gli Stati Uniti, quindi minacce di guerra più o meno fondate da parte della Corea. E Hillary è intervenuta chiedendo, insomma, ai coreani, almeno ai leader nordcoreani, di evitare inutili provocazioni. Vedremo Hillary, è interessante seguire con la Corea del Nord, spedizione a Oriente. Che è quindi uno dei piatti forti, vi ricordo quindi la settimana come disegna, ci sono queste firme e l'avviamento dei provvedimenti a Washington, c'è la visita a Oriente, Cina compresa, di Hillary Clinton, c'è una situazione sudamericana che ci sembra interessante da seguire, nonché gli sviluppi in Israele. Questo è Jefferson 2, la nuova versione dei vostri approfondimenti di estere qui su Radio 24. Io sono Stefano Pistolini, Emiliano Enrico con me, in regia a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Filippo Aureggi, la mail è jefferson2@radio24.it e soprattutto Facebook, che continua a funzionare così come motore della nostra interattività, no? Fra noi che facciamo il programma, voi che lo ascoltate, ma che avete cose da dire, da precisare, da correggere, da criticare, per farlo potete usare, per contattarci direttamente, il nostro sito Facebook, che si chiama Redazione Jefferson 2, 2 scritto in parola. Se invece volete partecipare giorno per giorno al Focus, alla nostra proposta, al tema da discutere tutti insieme, lo potete fare sul sito che si chiama Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself, sempre di Facebook. Bene, bene, andiamo in replica stanotte, a mezzanotte. Vi ricordo che però il podcast, per chi ha orari che non conciliano con tutto ciò, è sempre in azione 24 ore al giorno, raggiungibile anche attraverso il sito di Radio 24. E invece la diretta, infine, vi attende domani attorno alle 4 qui da Radio 24. Ci risentiamo.